pago tutti i soldi miei. Due anni di palestra, allenamento duro, e ora tu mi mandi a fare in culo. Sei sempre dentro ai sogni miei, proprio come tu. Non riesco a più vedere, lo sai, proprio come tu. Ti prego, pensaci un po' su, non proprio come tu. Fatto fare con le tue lacrime, vatti a buttare.